La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato ai discorsi che hanno fatto la storia. Con l'aiuto di Flavia Trupia, autrice del libro Discorsi potenti, tecniche di persuasione per lasciare il segno, analizzeremo forma e contenuto di alcune tra le più importanti orazioni di carattere politico pronunciate nel corso degli ultimi decenni. La parola adesso va a Dino Pesole. I have a dream, ho un sogno. Se c'è una frase che più di ogni altra risuona anche oggi a distanza di anni, quando in giro per il mondo sono in gioco diritti fondamentali da difendere, ecco che ricompare quella storica frase di Martin Luther King, frase pronunciata il 28 agosto del 1963 al Lincoln Memorial di Washington. Ho un sogno, che i miei 4 bambini vivranno un giorno in una nazione dove non verranno più giudicati per il colore della pelle, disse Martin Luther King. Un discorso potente, di grandissima presa, come molti altri in cui la parola diviene esse stessa veicolo, trasmissione di un pensiero e al tempo stesso un esercizio di retorica ad altissimo livello. Discorsi che hanno fatto la storia, discorsi potenti, tecniche di persuasione per lasciare il segno, appunto, è il titolo di un bel libro di Flavia Trupia pubblicato proprio in questi giorni da Franco Angeli. Un libro che raccoglie, illustra e analizza anche dal punto di vista della scelta delle figure retoriche utilizzate il contenuto dei messaggi che illustri personaggi di spicco della nostra vita politica e sociale hanno pronunciato nel corso degli ultimi decenni. Il libro di Flavia Trupia ci accompagnerà oggi e sabato prossimo in un viaggio che potremmo anche definire inedito, che vi proponiamo con molto piacere e interesse. Flavia Trupia, blogger e anche ghostwriter, consulente di comunicazione, è in studio con noi questa sera. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Comincerei questo nostro viaggio proprio con il primo discorso riportato nel suo libro. È lo storico discorso che il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, pronunciò a Washington il 20 gennaio del 1949. Ed è un discorso di grandissima importanza, perché sancì l'affermazione definitiva della dottrina Truman, basata, come sappiamo, sull'affermazione dell'egemonia e della supremazia delle democrazie occidentali contro l'incombente minaccia del comunismo e il mondo del dopo Yalta, il mondo della guerra fredda. Communism subjects the individual to arrest without lawful cause, punishment without trial, and forced labor as a chattel of the state. It decrees what information he shall receive. Allora, Flavia Trupia, questo discorso di Truman è passato alla storia proprio perché anche dal punto di vista dell'esercizio della retorica e quindi delle frasi utilizzate, in sostanza si basa su questa forte allocuzione del pericolo incombente del comunismo. È giusto? E poi nel suo libro lei analizza anche nel dettaglio come si sviluppò questo discorso. Truman si trova di fronte a una sfida molto importante, quella di far passare il concetto di dover investire una ingente somma di denaro nella ricostruzione dell'Europa distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe come se oggi venisse Barroso, il Presidente dell'Unione Europea, e ci dicesse cari cittadini dell'Europa dobbiamo investire sull'Africa. Quindi ci rendiamo conto che la sfida è molto difficile. L'impianto dal punto di vista linguistico che io ho messo in evidenza nel libro è un impianto che ho definito di tipo matematico. Truman prende due elementi che sono due attori che mette in contrapposizione, il comunismo e la democrazia. Li mette in contrapposizione come due elementi che si combattono tra loro e il discorso per 4 volte mette in contrapposizione A, che è il comunismo, e B, che è la democrazia. Ecco, quindi con questo esercizio lui riesce però a convincere gli americani e anche il mondo che comunque la sua tesi sarà la tesi vincente in qualche modo. Sì, perché il comunismo e la democrazia, drammatizzati e messi in contrapposizione l'uno contro l'altro in questo modo, con questo espediente che noi possiamo definire matematico, diventano due attori di una narrazione, quello che i linguisti chiamano gli attanti. Questo modo di contrapporre comunismo e democrazia è stato poi molto seguito nella letteratura, nel cinema, nell'antropologia della nostra cultura, della cultura occidentale. Ricordiamo tutti, per esempio, la frase "io ti spiezzo in due" di Rocky IV, un film degli anni Ottanta, in cui noi abbiamo il tipico americano che è Rocky, che è l'uomo che si è fatto da solo, che combatte contro Ivan Drago, il russo cattivo, il sovietico cattivo, e alla fine vince il Rocky IV, e in realtà è lui che spiezza in due il famoso Ivan Drago. Allora, adesso, se è d'accordo, dottoressa Trupia, io rimarrei in quegli anni per proporre ai nostri ascoltatori un altro importantissimo discorso che venne pronunciato il 10 agosto del 1946 dal presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi. De Gasperi, lo ricordo, parlava come rappresentante di una nazione sconfitta, come rappresentante di una nazione che insieme alla Germania aveva provocato la Seconda Guerra Mondiale. Quindi avverte la diffidenza, avverte l'ostilità dei paesi rappresentati nella conferenza, e parla così. In questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me, e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato, e l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. E qui non posso ecco negare. Tranne la vostra personale cortesia, dice De Gasperi, quindi avverte che chi lo sta ascoltando ha una certa ostilità nei suoi confronti. Dai racconti dell'epoca si sa che l'atmosfera era veramente ostile nei confronti dell'Italia e nei confronti di De Gasperi, che era il rappresentante dell'Italia. De Gasperi inizia questo discorso, questo che abbiamo sentito è proprio l'incipit, l'attacco del discorso, con un espediente retorico classico, che è la captatio benevolentiae. Cerca di catturare la simpatia dell'uditorio attraverso questa frase che abbiamo sentito, che serve appunto per riscaldare un po' l'atmosfera. E in parte ci riesce, perché le condizioni per l'Italia saranno estremamente negative, ma l'Italia, attraverso De Gasperi, ricostruisce la propria autorevolezza internazionale. E in qualche modo prepara poi il viaggio che De Gasperi farà nel 1947, il famoso viaggio negli Stati Uniti, in cui di fatto concorderà l'entità del prestito, tanto che i cinegiornali di allora riportavano questa specie di scenetta, di gag, col presidente De Gasperi che consegnava all'ambasciatore Tarchiani l'assegno che gli era stato consegnato dagli Stati Uniti. Quindi quel discorso è anche funzionale a quello che avverrà poi subito dopo, immagino. Assolutamente sì, perché De Gasperi si propone come una persona molto concreta, e questo si vede anche nelle parole che lui pronuncia a Parigi, alla conferenza di pace di Parigi. È un discorso, a parte l'inizio in cui abbiamo visto c'è questa figura retorica molto classica, è un discorso invece molto concreto, in cui De Gasperi si sforza di trovare le parole più semplici per esprimere i concetti che vuole comunicare. Quindi diciamo che per il resto è un discorso antiretorico, direi quasi piatto, però sicuramente molto efficace e molto sentito. Adesso farei un piccolo balzo in avanti, anzi un grosso balzo in avanti, che ci porta ai nostri tempi, ed è il discorso riportato nel suo libro, anch'esso per molti versi storico, che l'attuale presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha pronunciato all'Università del Cairo il 4 giugno del 2009. Il Time Magazine lo ha definito la più importante allocuzione mai pronunciata sul Medio Oriente da un leader americano. I am honored to be in the timeless city of Cairo and to be hosted by two remarkable institutions. For over 1,000 years, Wilazar has stood as a beacon of Islamic learning. And for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. And together, you represent the harmony between tradition and progress. I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum. Ecco, allora, perché è così importante questo discorso? A parte che tutti abbiamo avuto di nuovo la possibilità di ascoltare anche la grande capacità oratoria di Barack Obama. Barack Obama ed è stato definito, probabilmente il più grande retore dei nostri tempi. È un personaggio che conosce molto bene gli strumenti della retorica. Questo discorso è una mano tesa dell'Occidente nei confronti del mondo musulmano, in cui Obama cerca di trovare e trova il punto in comune, non le differenze, tra i due mondi. Sottolinea il fatto che sono due mondi che hanno gli stessi valori, il fatto di mandare i figli, il desiderio di mandare i figli in buone scuole, il desiderio di vivere bene, la spinta e la ricerca del conforto nella religione. Proprio la religione, che dovrebbe essere l'elemento che divide questi due mondi, secondo Obama è l'elemento che mette insieme questi due mondi. Infatti Obama, lui dice, dobbiamo partire da un nuovo inizio. Il nuovo inizio è quello che noi vediamo insieme, un cammino insieme. Già, e poi c'è anche qualcuno che sostiene che dietro, in fondo, le clamorose proteste del Nord Africa in questo momento ci sia anche l'effetto di questo discorso, che in qualche modo ha aperto una nuova strada, quasi potremmo dire, mutuando Kennedy, una nuova frontiera a dei paesi che non vivono una democrazia ma dei regimi dittatoriali. E anche in questo caso l'esercizio di alta retorica di Barack Obama è fondamentale. È fondamentale perché Obama ha uno stile che va dritto al cuore, non gira intorno ai concetti, non dice frasi generiche come auspichiamo il dovuto dialogo. Lui dice basta con la guerra tra israeliani e palestinesi, e per dire questo che io ho detto con queste parole, lui dice basta lanciare razzi sui bambini addormentati. Boom! Fa un effetto enorme sull'uditorio. Bene, grazie. Per questa sera chiudiamo qui. Vi diamo appuntamento con Flavia Trupia a sabato prossimo. Grazie. Grazie. Flavia Trupia sarà nostra ospite anche la prossima settimana per approfondire i discorsi a sfondo sociale.